ora scoperto tutto. Ora capisco l'escita di Filippo. Egli ha trovato meglio partito, e per non comparire, o girellaio o pazzo, ha finta quella scusa e mi strapazza. Ma l'aggiusterò io. Più non mi importa di quella scimunita, per me bella finita, ma vuo almeno dirle un po' fuor de denti il fatto mio, farle veder che so cantare anch'io. Non mi curo di quella pettegola, ma non voglio passar per ridicolo, vuole cose che vadano in regola, non mi voglio lasciar sopraffar, non mi preme, non c'è più pericolo, ch'io con vecchi ritorni impicciarmi, ma vuol dire, ma voglio sfocarmi, ma vuol almeno che impari a trattar. Colombo! Lustrissimo! Che fai? Nulla, signore! Come nulla? Che cerchi da quella cosa? Andavo per parlare a Filippo una parola. Lo conosci? Sicuro. E me? Non credo d'averla vista mai. Sentimi, villanzona, lo saprai. Il marchese son io, di ripa frutta, che ho feuti marchesati, baronia e principati. Di nobiltà di centinaia, numero e quarti e misura stai. E lo credo, lustrissimo. Non basta. Sappi che al mio servizio, o pacci ed osa fieri, la che mozzi di stalla e cappe nere, ed un mondo di bestie e di persone. E che se a questa porta tardirai d'accostarti più mai, io ti farò morir sotto un bastone. Iaiaiaiaiai, oh signor, non si incori. Hai capito? Lustrissimo, sì. Guardati bene. Non v'è dubbio. Ma sappia che Filippo m'ha fatto brutto tiro. E che? Ier sera, non più tardi ier sera, avea promesso di darmi la Sandrina. Vengo questa mattina per sposarla secondo il concertato, e mi cacciato via come un frustato. Tu mi fai ridere. E lo so che la Sandrina oggi le sposa lei, ma vorrei ricattarmi con colui. Con chi? Con quello vecchio. E tu ti immagini che il nostro matrimonio bella fatto? Oh, purtroppo lo so. Povero matto, credi che avvilirei tanti titoli miei? La nobiltà si rancida e soffrò per sposare una povera villana. Ma un suo servo tedesco? Ehi, se lo crede, e lo crede Filippo, è infatti per Sandrino, e ho santo dell'amore, ma fargli un gran dolore, la sposerò al mio mozzo di cucina. Volesse il ciel che fosse vero, almeno vendicato sarei di quello stolto, di questo vecchio malandrino. No, ascolta, mi sembri un uomo di garbo, ma vuoi fidarti tutto il segreto? A lui dato ad intendere col pretesto d'un voto de m'ha fatto che vuoi Sandrina in moglie. Ma nel fare il contratto si cambieranno i nomi, e il mio domestico subentrerà per farlo sposalizio, e lei sarà mia donna di servizio. Oh, bella! Ma scoperta la faccenda, Filippo che dirà? Che vuoi che dica? La Sandrina è d'accordo, e comando sia sottoscritto il contratto. Non v'è rimedio, è quel che è fatto, è fatto. Dico, come vorrei star brutto. Oh, quanto pagherei d'esser presente a questo matrimonio! Vieni, potrai servir di testimone. Ah, fatelo, signor, per carità. Dove stai tu di casa? Eccola là. Vattene, e Dio aspetta. Io manderò un servitore ad avvisarti. Ivo.